Linee d'ombra di Matteo Caccia. È finito tutto quando siamo tornati al JFK di New York e quando l'ho salutata avevo una tonnellata dentro lo stomaco e io l'ho vista andare via così e quella è stata l'ultima immagine. È a Mammoth Lake, splendida cittadina tra le montagne rocciose, che ci baciamo per la prima volta, su un marciapiede, io e lei, gli altri chissà dove. Storie di amori estivi e di navi cargo in una puntata che si intitola Amore a tempo determinato. Aspetta! Che c'è? Non lo so! Che cosa vuoi, Joel? Aspetta, non lo so, voglio soltanto che... aspetti un po'. Va bene. Davvero? Io non sono un'idea, Joel, ma una ragazza incasinata che cerca la sua pace mentale. Non sono perfetta. Non riesco a vedere niente che non mi piaccia in te. Ma lo vedrai. Certo, col tempo lo vedrai. E io invece mi annoierò con te e mi sentirò in trappola, perché è così che mi succede. Ok. Ok. Ok. Ok. Uno probabilmente dei film più belli che raccontano una storia d'amore. In italiano, ahimè, tradotto con Se mi lasci ti cancello, che sembra un film di seconda categoria in cui ci sono due che litigano e no, non ne voglio più sapere, ciao, addio. E invece è un film di una poesia e di una magia incredibile, il cui titolo americano è effettivamente un po' complesso, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, cioè l'eterno splendore della mente senza macchia, che sembra un po' una pubblicità di un detersivo, è un po' un eroe senza macchia, ma racconta molto meglio che cos'è questo film, che mi auguro abbiate visto, un film del 2004, i protagonisti sono gli splendidi Jim Carrey e Kate Winslet, che è troppo complicata, la trama è veramente troppo complicata, sappiate che ha a che fare con l'innamorarsi di un'altra persona, con il lasciarsi con quella persona, da quella persona e con la necessità di dimenticare di quella persona, che è complessissimo, è impossibile da fare. Il film è un po' mescolato, ha una micro parte di fantascienza e racconta proprio questo tentativo e per questo si intitola lo splendore eterno di una mente che non si ricorda, cioè di una mente che non è macchiata dal ricordo. È un film di questo regista che si chiama Michel Gondry, che ha vinto un Oscar credo per la sceneggiatura, indubbiamente per la sceneggiatura, che invece è di Charlie Kaufman, ed è appunto un film splendido che racconta una storia di un amore che abbiamo scelto per aprire questa puntata che si intitola Amore a tempo determinato, perché quella storia lì sembra proprio così, poi di fatto per via della memoria che se ne va il tempo determinato scade. Io spero che stiate bene in questi giorni, spero che stiate bene sinceramente, non l'abbiamo capito tutti quanto sia cambiato la domanda come stai, non è più semplicemente come va, ok passiamo ad altro, ma è oh tu come stai in questo casino che sta succedendo, e spesso nei messaggi, nelle domande è come stai, come state, dove si intende non solo come stai tu ma come stanno le persone che ti stanno vicino, quindi insomma io mi auguro che stiate bene, devo dire che siamo tutti quanti molto felici, stupefatti ma anche molto felici dal numero di storie che ci stanno arrivando in questo periodo qui a Linee d'Ombra. Sapete che da quando abbiamo cominciato a chiedervi delle storie non solo più riguardo ai vizi capitali ma riguardo a un confine, a un passaggio, a una linea che varca un territorio di qua, un territorio di là, e la storia la racconta, qualunque storia sia, storia d'amore, storia di lavoro, storia di infanzia, storia di viaggi eccetera eccetera, ecco, qualunque sia quella storia deve starci in mezzo una linea. Ecco, da quando abbiamo aperto la raccolta il numero di storie è aumentato in maniera esponenziale. Linee d'ombra @radi24.it e le storie che vi raccontiamo oggi hanno a che fare proprio con il confine della conoscenza nell'amore, cioè ci conosciamo fino a un certo punto e poi decidiamo se andare oltre quel punto oppure fermarci, se decidere di trasformare l'innamoramento in un amore, qualunque cosa voglia dire questa frase, cioè se varcare quel confine lì oppure se stare un passo indietro. Di solito se decidiamo di stare un passo indietro così a naso, non per fare la posta del cuore di caccia, ma se facciamo un passo indietro è perché non siamo innamorati, detto proprio male male. Se invece decidiamo di fare quel passo in là, non è che lo decidiamo, semplicemente accade. La prima storia che vi raccontiamo è la storia di Luca, che racconta proprio di un viaggio e di un amore che nasce durante questo viaggio. La seconda storia invece parla di un viaggio e di un amore che usa invece un viaggio. Non vado oltre, mettetevi comodi perché cominciamo. Benvenuti a Linea d'Ombra. Agosto 2005. Un viaggio attraverso gli Stati Uniti, da Denver fino all'Oceano Pacifico, fino a Los Angeles, la terra dei sogni. Di quei viaggi fatti con avventure nel mondo. Un gruppo di sconosciuti che si ritrova in aeroporto e insieme si fa un viaggio. Nuovi amici, nuove persone, molti spunti di cui parlare e per cui conoscere. Insomma, nuove esperienze. Vivo a Torino, parto da Malpensa, metà gruppo parte da Fiumicino. Ci si vede a JFK, New York. Si fa scalo, poi ancora scalo a Cincinnati e poi finalmente Denver. Lì autonoleggio, on the road, si attraversa il continente americano. Mi sentivo come il figlio di Jack Kerouac. Arriviamo al JFK prima noi di Milano, aspettiamo un'ora circa. Poi arrivano gli altri da Roma, gate 17. Io la vedo subito. Esiste solo lei, nient'altro al mondo. Dopo 8 secondi capisco che sarebbe accaduto qualcosa, capisco che saremmo finiti a letto insieme. Stefania, si chiama così, è tutto ciò che sapevo all'inizio, tutto ciò che sapevo durante, tutto ciò che so ancora adesso, 14 anni dopo. Stefania. Niente cognome, niente mail, niente numero di telefono, solo Stefania. Vive vicino a Bari, nient'altro. Segni particolari. Bellissima. Stefania, sono da tantissimi anni, però non era più o meno sul 1,65 m, capelli castano scuri, lunghi sulle spalle, occhi scuri, un bellissimo sorriso, era simpaticissima, molto estroversa, ed è stato qualcosa che è nato all'istante, cioè quando lei è uscita dall'aereo ed è arrivata dove noi attendevamo queste persone, cioè è bastato uno sguardo. Io mi ricordo benissimo che poi le diedi all'epoca la tessera telefonica per chiamare da New York la mamma per dire che era arrivata. E da lì io sapevo già dentro di me che era iniziato tutto, e così è stato. A Denver ci si divide in tre pulmini guidati a turno da noi. Lei è in un altro, a ogni sosta sono sguardi, ammiccamenti, battute, carezze, sorrisi che illuminano l'anima. È un subbuglio di sogni, di ormoni. Il viaggio va tra parchi stupendi, scenari fantastici, e quell'aria in faccia che sa di vita, vita vera, vissuta, intensa, potente. Arriviamo persino a scambiarci messaggi scritti, come ragazzini di seconda media. Frasi buttate sulla carta, inchiostro per una passione che sta strabordando dalle nostre vite. A Lake Powell facciamo in modo di finire entrambi sulla stessa auto. Io guido, lei spesso di fianco o dietro, a guardarci dallo specchietto retrovisore. Nei ristoranti sempre vicini. Lei sotto il tavolo, con le sue gambe sopra le mie, con le sue mani in mezzo alle mie. È a Mammoth Lake, splendida cittadina tra le montagne rocciose, che ci baciamo per la prima volta. Su un marciapiede, io e lei e gli altri chissà dove. Facciamo un percorso nel verde, in un bosco. Lì facciamo l'amore per la prima volta, potente, travolgente, selvaggio. Sarà così in ogni luogo che ci vedrà passare. Facciamo l'amore nella Valle della Morte, prima dentro una roulotte, poi su una torretta di legno, nel deserto della Valle della Morte, lo facciamo a Las Vegas, in motel lo facciamo nella meravigliosa San Francisco, due volte, tre volte, perfino da ubriachi. Fino a quando arriviamo al mare, al Pacifico, a Venice Beach, Santa Monica, Santa Barbara, ci travolgiamo, ci mescoliamo, siamo una cosa sola. E io sono terrorizzato dal tempo che passa, dal viaggio che finisce, dalla data di scadenza che incombe su di noi. È come una condanna. Qualcosa che fa di tutto per non farmi vivere il momento, qualcosa che vuole affievolire la favola, che vuole spegnere la passione, un tormento dentro un sogno, un viaggio, un inizio, una storia d'amore, una fine. Glielo dico, lo ripeto, lei mi guarda e sorride, non fare così, mi dice, non tormentarti, vivi il momento. Penso io, sì, lo vivo, ma siamo a Los Angeles, siamo alla fine del viaggio. We'll be right back. Il motel della Super 8 è un palazzone di almeno 12 piani, un muro che si staglia nell'infinità dei cieli degli angeli. Ci danno una camera ad un piano alto. Entriamo, posiamo le valigie. Il sole californiano sta morendo nel Pacifico. Una luce giallo-arancione si staglia all'orizzonte colorando ogni cosa di un'infinita bellezza. O forse la bellezza eravamo noi. Apro la tenda e la finestra dà su una trafficatissima highway, 6 corsie per senso di marcia. Un serpentone di macchine si dirigono ovunque, chissà per quali luoghi, chissà con quali pensieri. Ci facciamo la doccia e siamo di nuovo a letto. Domani mattina ci sarà il volo per New York, poi ci si divide per Roma e Milano e si torna a casa, perché tutto, proprio tutto finisce, inesorabilmente. La mia testa è in quell'anfratto di esistenza dove da una parte c'è il piacere e dall'altra il dolore. Andiamo a cena con gli altri, tutti sfiniti dal giorno passato in giro per Los Angeles e gli Universal Studios. Andiamo a letto presto, al mattino la sveglia è alle 4 per entrare in quel luogo infinito che è l'aeroporto internazionale di Los Angeles. Rifacciamo l'amore e dico che l'amarezza è padrona di me, che il pensiero della fine, come per ogni cosa, mi tormenta senza sosta. Lei mi ripete ancora una volta: non fare così, non farti fregare dalla malinconia. Il mattino dopo, alle 4, con forse 2 ore di sonno inquieto, siamo in aeroporto. 5 ore di volo ci riportano a New York. Lei, diretta a Roma, parte 2 ore prima di me. Incredibilmente, davanti allo stesso gate, il 17, arriva il terrificante momento di salutarla. Me lo nego, ma so che sarà per sempre. So, proprio in quel momento, che la sua pelle sulla mia sarà per l'ultima volta. So che i suoi occhi nei miei saranno l'ultimo sguardo di luce viva, potente. So che il suo sorriso sarà per l'ultima volta. Tutto è per l'ultima volta. Lo so. Me lo nego mentre l'abbraccio, fingendo indifferenza davanti agli altri del gruppo, ma non è così. Durante tutto il viaggio noi avevamo anche parlato di questo. La nostra relazione iniziava e finiva col viaggio, perché tra l'altro io ero fidanzato a Torino e lei era fidanzata a Bari, e non ci siamo scambiati neanche l'email, non avevamo nessun, e così è stato fino alla fine. E quindi io sapevo, difatti, mentre ci trovavamo la sera in hotel, ci prendevamo la nostra camera, io magari mentre facevamo l'amore con lei arrivavo a dirgli: ti ricordo, mancano 3 giorni e il viaggio è finito. E lei mi richiamava dicendomi: non ci pensare, vivi il momento, vivi adesso, non ci pensare alla fine. Però poi la fine è arrivata. Passa l'imbarco, non si gira nemmeno. Il gate 17 la inghiotte come un tunnel buio e un sogno che muore. Il cuore è fuori controllo, gli occhi sono flebili, argini a un oceano di lacrime. In gola ho una tonnellata di dolore. Dalla vetrata vedo il finger spostarsi dalla fusoliera dell'aereo. Il trattore muoverlo per piazzarlo sulla pista di rullaggio. Lo vedo muoversi lentamente come un'ultima infinita tortura. Lo perdo di vista verso chissà quale pista che lo porterà via da me. Stefania. Niente cognome, niente mail, niente numero di telefono, niente di niente, anche adesso, 14 anni dopo. Stefania è un amore pazzesco durato un viaggio, una passione con la scadenza, un inizio e una fine. Stefania. Nient'altro. Un amore per sempre. Mentre piangevo in un bagno dell'aeroporto di Los Angeles, California, Stati Uniti d'America. Nella città del cinema ho vissuto il mio film d'amore. 14 anni dopo sento ancora la sua pelle su di me. I've La puntata di oggi si intitola Amore a tempo determinato, che sembra da una parte sembra una condanna e dall'altra invece sembra un contratto a metà tra, appunto, tra il sentimento e il sentimentale e il professionale. In realtà l'avete capito, la storia di Luca è molto chiara ed è davvero una storia caldissima, e senti che pulsa questa storia, gli pulsa tra le mani. Probabilmente mentre la scriveva Luca, immagino che in qualche modo la stesse vivendo ancora mentre la scriveva, e chissà se ancora mentre adesso l'ascoltava. Pronto, ciao Luca, buongiorno. Ciao a te, ciao a tutti. Come stai? Dove ti trovi in questo momento, Luca? Sono a Torino, dove vivo e lavoro. Sto abbastanza bene nonostante il periodo. Questo non è male. Che lavoro fai, Luca? Io lavoro per una multinazionale che fa analisi cliniche di laboratorio, quindi giro un po' tra ospedali, cliniche e le famigerate case di cura. Ma quindi stai portando in giro roba che è relativa anche a questo periodo di emergenza? No, relativa al Covid no, porto in giro prelievi di sangue che magari possono anche essere fatti a pazienti infetti. Ovviamente okay. Io non posso saperlo, no, il materiale è certo. Sigillato. Ma nel senso che il tuo lavoro è aumentato o la mole è rimasta più o meno quella? Da un punto di vista dei pazienti privati è diminuito, però io ho sempre lavorato tutti i giorni, non mi sono mai fermato, perché magari faccio qualche laboratorio privato in meno e faccio qualche ospedale in più. Senti, quindi appunto immagino che tu sia spesso su un mezzo e ci ascolti da lì, sì, insomma, ci ascolti. Sì. Esatto. Com'è stato rivivere questa storia, risentirla o scriverla? Perché davvero, Luca, cioè, sono passati 14 anni, ma questo ricordo e questa donna sono ancora vivi. Tu ne hai grosso. Tu hai la mia età, no? Quanti anni hai tu, Luca? Ho 49 anni. No, tu ne hai 5 più di me. Quindi ne avevi 35 all'epoca. No, esatto, sì, ero ancora giovane. No, esatto, sì, certo, eri giovanissimo ovviamente, però dico, non eri un ventenne ancora di primo pelo, eri già un uomo che... No, eppure, assolutamente. Eppure questa Stefania è ancora lì, in qualche modo. Sì, è ancora lì, è ancora qui adesso, e come dici te, quando io, ascoltando poi il vostro programma, quella sera sono andato a casa, ho detto... Adesso racconto la mia storia, cioè è venuta a galla in un secondo, cioè, perché è lì, cioè, è lì, capito? È sempre lì, e io spesso, lavorando anche molto da solo, mi vengono in mente dei particolari incredibili, magari disseminati tra la Valle della Morte, la California o la Monument Valley, dove abbiamo fatto questo viaggio attraverso il vecchio West degli Stati Uniti, e abbiamo vissuto città per città un viaggio dentro al viaggio. Ma infatti quando noi chiediamo delle storie che siano in qualche modo, abbiano un piccolo confine, per te questa storia è un confine enorme nella tua vita, che mi sembra di capire che ci sia stato davvero un prima e un dopo. Sì, sì, assolutamente. Secondo me il segreto di tanta passione, di tanto desiderio che c'era in quella storia è che aveva una scadenza, era a tempo determinato. Ma ecco, bravo, ma perché? Per quale motivo voi vi siete detti sin da subito non andrà oltre? Perché eravate impegnati altrimenti con altre persone? Bravo. Ok. Allora si chiarisce tutto. Guarda, tutto anche perché io la cosa incredibile è che io non ho mai, durante questo viaggio, non ho mai, per esempio, saputo il suo cognome, non ci siamo mai scambiati il numero di telefono. Cioè, io sapevo solo che Stefania viveva o vivrà tuttora a Bari. Quando io, nell'emozione incredibile, sembravamo veramente due ragazzini di seconda media, mentre vivevamo questa storia, io che poi sono uno che è una sorta di eterno insoddisfatto, cioè io vivevo questa relazione, ma nel contempo la mia testa mi massacrava perché contava i giorni alla fine. Sì, sì, è chiarissimo. Mancano sei giorni. È chiarissimo, hai capito? La tua storia, e devo dire che... Insomma, per esperienza personale, credo sia un'esperienza abbastanza comune a tutte le persone. Non con questa, probabilmente con questa temperatura così alta, però è chiaro, sei lì, te la godi, però dici, però poi finisce, torniamo a casa. E però qui poi finisce. Era proprio un torniamo a casa definitivo, perché avete deciso che non sarebbe andato esatto. Oltre. Poi quando sei tornato a casa, la tua storia ne ha subito dei contraccolpi rispetto a quello che hai vissuto lì, oppure... Diciamo che sono stato bravo a nascondere, non è certamente un vanto. No, ben fatto. Però È un fatto, esatto. La mia relazione continuata è finita poi alcuni anni dopo, okay. Però ovviamente la mia testa era rimasta dalle parti delle montagne rocciose. Sei più tornato negli Stati Uniti. Sei più tornato là, in quei posti, negli Stati Uniti? No. No. No, io amo molto viaggiare, sono tornato negli Stati Uniti, ma ho fatto altri posti, lì non ci sono andato, sono andato poi in altri paesi, però nel vecchio West, che tra l'altro è un viaggio meraviglioso, non ci sono mai stato. Senti, adesso però la domanda che so che tutti e tutte a casa si stanno facendo, ma davvero, cioè, non avresti voglia di fare una piccola ricerca? La tentazione c'è stata più volte, però come dici tu non saprei neanche da dove cominciare, ma anche dentro di me c'è un po' la paura di rimanere deluso adesso e di sporcare un po' questo fantastico ricordo che ho ancora vivo dentro di me dopo tanti anni. Quindi forse è meglio dire è finita, come tutte le cose della vita, lasciamola lì così. Grazie mille. Se per caso dovessi muoverti un po', faccelo sapere. Cioè, se dovessi muoverti in direzione, faccelo sapere. Luca, grazie davvero. Grazie mille. In bocca al lupo grazie per tutto. A voi. Buon lavoro. Ciao a tutti. A presto. Un amore a tempo determinato si intitola la puntata di oggi, l'abbiamo capito dalla storia che ci ha raccontato Luca, per quale motivo quell'amore è stato a tempo determinato, se di amore si è trattato. Lui sostiene di sì, quindi ovviamente noi gli crediamo fermamente. La prossima storia racconta di un episodio, di una storia d'amore molto diversa da questa, perché sono due persone che fanno un viaggio, ma lo fanno su una nave cargo, ma si sono appena conosciuti, sono un ragazzo e una ragazza, si conoscono da poco e decidono di fare questa follia nell'isolamento più totale. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Linee d'Ombra. Amore a tempo determinato. Sappiamo benissimo cosa significano gli amori a tempo determinato. La storia di Luca ce l'ha raccontato molto bene. Spesso sono gli amori estivi, gli amori che durano, come nel suo caso, una vacanza o un viaggio. La prossima storia ribalta la prospettiva, perché i protagonisti della prossima storia, che hanno scritto che l'hanno scritta per il New York Times nella sezione dedicata all'amore, lettere d'amore, si chiama Modern Love, la sezione del New York Times, che è dedicata proprio a queste storie particolari che loro selezionano e che raccontano. Da cui è stato tratto un libro molto molto molto interessante, che in sostanza raccoglie alcune di queste storie. L'ha pubblicata in Italia Rizzoli e firmata da Daniel Jones, che è la persona che appunto raccoglie tutte queste diari, queste storie in una rubrica, e ne è stata tratta anche una serie televisiva molto molto interessante, un podcast. Insomma, ci hanno ravanato tantissimo con questa rubrica e con queste storie, e questa storia arriva da lì e ci racconta, vi dicevo, non di due persone che si conoscono durante un viaggio molto lontano dal mondo, perché parliamo di una nave cargo, ma di due persone che si conoscono appena e decidono di fare un viaggio fuori dal mondo. Mettetevi comodi, questa è Linea d'Ombra. Liz ed io eravamo su una nave cargo in mezzo all'Oceano Atlantico, con il sole che tramontava e un vento leggero. La scena assomigliava a uno di quegli opuscoli per pensionati in cui una coppia guarda con molta speranza al mare aperto e il proprio futuro. Solo che io e lei ci conoscevamo appena. Era il nostro decimo appuntamento. Due settimane prima avevamo bevuto del vino in un piccolo bar di Chinatown, un tentativo disperato di creare un po' di romanticismo in quell'incontro. Io avevo legato con Liz attraverso il lavoro qualche mese prima ed eravamo usciti a cena insieme. Quelle serate erano sembrate promettenti. Poi lei un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che non se la sentiva proprio, non si sentiva pronta. Le sue vere parole furono: il mio astrologo dice che questo non è il momento giusto. Io non sono uno che crede nelle stelle e quindi ho riattaccato. Mi sono girato verso il mio amico e ho cominciato a insultare quell'astrologo. Com'è possibile che la posizione delle stelle del giorno in cui è nata Liz anni e anni prima faccia deragliare la mia vita sentimentale oggi? La mattina dopo mi ero già abituato alla delusione per aver perso qualcosa che era appena iniziato, rassegnandomi a tornare ai soliti appuntamenti, quelli poco impegnativi che spesso caratterizzano le relazioni in una città come New York. Invece, qualche settimana dopo, Liz mi ha mandato un messaggio mentre rientravo a casa dopo essere stato al matrimonio di un amico all'estero. Aveva cambiato idea. Ci incontrammo allora proprio in quel bar a Chinatown e fu lì che le mostrai una foto che avevo scattato durante il volo di ritorno dalle nozze del mio amico. In questa foto si vedeva, sullo sfondo, una nave da carico che navigava in mezzo all'Oceano Atlantico. L'avevo scattata dall'alto, dal finestrino dell'aereo. Vedere la nave mi ha fatto pensare a come non conosciamo più le dimensioni del pianeta perché non percepiamo più le distanze quando viaggiamo. Cosa si prova invece a percepire davvero quanto gli Stati Uniti siano lontani dall'Europa, ad esempio? Cosa si sente a viaggiare per mare, come fecero i miei nonni quando arrivarono un secolo fa dall'India negli Stati Uniti? Facciamolo, mi ha detto lei. Aveva bevuto due bicchieri di vino, quindi qualche dubbio effettivamente ce lo potevo avere. Saliamo sulla nave da carico e attraversiamo l'Atlantico, mi disse. Sarà il nostro prossimo appuntamento. Abbiamo riso entrambi e non ne abbiamo più parlato. La mattina dopo mi sono svegliato e le ho scritto per dirle che stavo ancora pensando alla nave da carico. Quando sei libero? Mi ha risposto lei. Nei prossimi 3 mesi direi sempre, ho detto io. Un po' scherzavo, ma un po' era anche vero. Io sono un consulente e lavoro spesso per aziende di startup, il che mi permette di gestirmi con una certa facilità. Non ero abituato al fatto che le cose andassero così velocemente. Non avevamo mai trascorso più di 5 ore consecutive insieme. Non ne avevo parlato di lei nemmeno ai miei amici o a mio fratello. Qualche ora dopo lei mi ha scritto dicendomi che aveva prenotato il biglietto. Saremmo partiti di lì a 2 settimane. Io e Liz non avevamo mai passato la notte insieme e ora il nostro prossimo appuntamento prevedeva un viaggio di 10 giorni insieme a pochissime altre persone a bordo di una nave cargo. Iniziammo a concentrarci sulla logistica. Abbiamo comprato libri sulla navigazione celeste, sui naufraghi, abbiamo fatto delle liste di modi per decorare la nostra cabina. Quando finalmente l'ho detto alla mia famiglia, i miei genitori hanno cercato senza successo di conoscerla e mio fratello mi ha mandato su YouTube dei video di appuntamenti andati a male a bordo di navi da crociera e tutto effettivamente è cominciato a sembrarmi una pessima idea. Quando siamo saliti a bordo della nave ad Halifax, sulla costa canadese, era chiaro che la nostra stanza non era stata costruita pensando al romanticismo. Due letti singoli appoggiati alle pareti, il piccolo bagno puzzava di liquami e di gasolio. La nave era alta 15 piani e lunga come tre campi di calcio, trasportava 3.800 container e 1.300 automobili dal Nord America all'Europa. I suoi corridoi erano disorientanti, stretti, senza finestre, costellati di porte tutte uguali. C'erano solo 28 persone a bordo, compreso il capitano e i 18 membri dell'equipaggio. Liz ed io abbiamo iniziato a disfare le valigie. Lei aveva portato lenzuola nuove, coperte di cashmere, candele e lampade. Io avevo portato un piccolo tappeto persiano, un gioco in scatola, carte, libri e una lista di domande da fare ad un primo appuntamento. Il mio lato della stanza sembrava un dormitorio, mentre nel suo lei si sentiva come a casa. Quindi abbiamo deciso che il suo lato sarebbe stato di entrambi. Mentre ci sdraiavamo sul letto singolo, adattandoci l'uno all'altro, i container di spedizione venivano impilati uno sopra l'altro, in porto, fuori dalla nostra finestra, squassando di colpi l'intera nave. Poi partimmo. All'inizio del viaggio si stabilì una routine piuttosto semplice: leggere, dormire, condividere storie con gli altri viaggiatori. Abbiamo fatto amicizia con una coppia olandese che aveva viaggiato per il mondo per 6 anni con la loro Jeep. Le grandi emozioni arrivavano dalle esercitazioni di emergenza, dove ci si lanciava attraverso centinaia di metri di gole di container su per una scala metallica di 5 piani, sul bordo esterno della nave, fino alla scialuppa di salvataggio a poppa. Passavamo i nostri pomeriggi accampati vicino alla macchina per l'espresso. Una notte, l'equipaggio filippino ha organizzato un karaoke, dopo un pasto tradizionale a base di sinyang e pesce impanato. Tutto quell'ozio ha fatto sì che io e Liz non avessimo altra scelta se non quella di conoscerci meglio. Le piccole interazioni che si fanno di solito al bar si sono trasformate in profondi dialoghi sul nostro passato. Un giorno di chiacchiere sulla nave era come un mese di incontri a New York. In quei 10 giorni abbiamo trascorso più di 160 ore di sonno insieme. Abbiamo condiviso 2 dozzine di pasti e abbiamo pomiciato più della media delle coppie in 5 mesi di tempo. Il terzo giorno ho detto a Liz che l'amavo. Al quinto stavamo parlando di futuro. All'ottavo giorno stavamo già litigando. Lei disse che non consideravo i suoi bisogni e le sue necessità. Le stavo facendo pressione per farla socializzare quando aveva bisogno di stare un po' da sola. Volevo che vedesse le cose a modo mio e non mi ascoltava. A mia volta pensavo che non accettasse la realtà di dove eravamo. Ci fissavamo in silenzio nella nostra piccola stanza. Non c'era nessun altro posto dove scappare. Se fossimo tornati a New York, io me ne sarei andato da lì e avrei incontrato il mio migliore amico in un bar del quartiere per lamentarmi di lei. Lui mi avrebbe sostenuto e mi sarei sentito in diritto di mollare e prendere un'altra strada, ripetendo con il solito ciclo di appuntamenti. Sulla nave però non c'era stata una via di fuga. Camminai fino al ponte esterno e mi sedetti su una scatola di metallo piena di giubbotti di salvataggio, mentre lei rimaneva in stanza. Per tutto il pomeriggio sono rimasto seduto lì a ripensare alle nostre conversazioni. Ore dopo, mentre il sole tramontava, sono tornato in cabina, sono entrato e mi sono seduto accanto al letto e le ho detto: mi dispiace. Anche a me, mi ha risposto, e ci siamo addormentati sul letto singolo. 2 giorni dopo arrivammo a Liverpool, in Inghilterra. Ci registrammo in un hotel a 4 stelle, ordinammo il servizio in camera e guardammo un brutto film. Io osservai Liz. Mi piaceva la sua risata, mi piaceva la sua felpa rossa, era tutto perfetto. Sul volo di ritorno per New York, il giorno dopo, abbiamo aperto una bottiglia di champagne. Qualche settimana dopo, siamo andati dall'astrologo di Liz. «Sì, siete compatibili», ha detto. Qualche mese dopo, abbiamo deciso di andare a vivere insieme e ci siamo fidanzati. Più recentemente, mentre il coronavirus divideva la città e l'intero paese e il mondo intero, Liz ed io abbiamo levato le tende e abbiamo raggiunto la casa della mia famiglia nella British Columbia, dove noi due e suo fratello, mentre scrivo questo racconto, siamo tutti in quarantena, in una piccola casa dall'altra parte della strada rispetto a dove sono cresciuto. È tutto a posto, non ci dispiace isolarci. per noi l'isolamento ha fatto la differenza. Readings in astrology never meant that much to me. The woman I thought was just so, she now tells me we ain't compatible. She says, see, look right here on the paper, you should be loving your neighbor. Loving my neighbor's out of sight. But I'm your man, and I'm just trying to do right. Trouble coming right here with this funky woman. The love I thought she had for me, and I see it's gone to some astrology. Well, baby, I can see your face. You better wake up before it's too late. Straighten up and make up your mind. You need a horoscope to find another love sign. Si chiama Dave Aouila, l'autore di questa piccola storia che è molto recente ed è accaduta evidentemente tutt'al più un mese fa. Adesso si trovano appunto negli Stati Uniti, la rubrica di cui vi ho parlato si chiama Modern Love e la tiene il New York Magazine. Si intitolava Relationships Move Fast on a Slow Cargo Ship, cioè le relazioni si muovono molto velocemente su una lentissima nave da carico. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i vostri diari dalla quarantena. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Linee d'ombra. Ormai lo sapete, la raccolta di diari della quarantena che stiamo facendo grazie ai vostri diari che continuate a inviarci a lineedombra@radio24.it si compongono davvero un universo molto variegato. È una banalità, lo sappiamo benissimo che ognuno di noi è radicalmente diverso o se non radicalmente è molto diverso dall'altro, dalla persona che ha di fronte a sé, pur ovviamente in tutte le similitudini e le semiglianze che ci sono tra esseri umani. Eppure il fatto probabilmente di vivere la stessa condizione, è una condizione molto simile, quella della chiusura in casa, per lo più per quanto è possibile, ci permette ancora di più di vedere quanto ognuno di noi vive questa situazione in maniera diversa e quindi di fatto quanto è diverso da noi. Ed è molto curiosa proprio la prossima storia, il proprio diario, che parla di una donna che sostiene che addirittura questa quarantena finirà troppo presto. Veramente non posso chiamarla proprio quarantena. Il mio è un lavoro non differibile. E anche se normalmente molti dicono che non serviamo a nulla, ora che le carceri si sono rivelate una polveriera, noi educatori dobbiamo esserci, parlare con i detenuti, scrivere a manetta relazioni per le misure alternative che tutti stanno chiedendo. Quindi, tranne il venerdì di lavoro agile da casa, tutti i giorni vado in galera, amando le strade sgombre e la rotonda di Piazza Baldissera, che si percorre senza nemmeno rallentare, quando di norma è una guerra. Quando esco passo dall'Ipercoop, non spesso, ma più di una volta a settimana, e poi vado dai genitori. Lavoro, Ipercoop, genitori, poi a casa, come sempre. Non è cambiata molto la mia vita. Manca l'appuntamento mensile con Rossella, pizza, cinema, chiacchiere. Per quasi tutto il resto è il sollievo dell'alibi. Sono in quarantena, non possiamo vederci. Che peccato. Arrivo a casa, ho assolto tutti i miei doveri. È sera, ho da mangiare, ho i gatti, chi sta meglio di me? Mettiamo in chiaro. Lo so che questa pandemia è una tragedia, lo so. So che ci sono tanti morti,

La comunicazione con Giovanni, nostro figlio, di quello che stava accadendo ha avuto due livelli. Riguardo al papà, lui ha saputo subito che era andato in ospedale, perché io ero ancora a casa, gli potevo parlare. Gli avevo detto che, visto che non gli passava la febbre, era dovuto andare in ospedale per fare un po' di analisi e vedere che cosa avesse esattamente. Ma quando poi sono stata ricoverata anche io, la situazione si è complicata. Lui immediatamente, perché purtroppo poi la televisione martella solo su quello, mi ha detto del coronavirus. È stato, insomma, a 8 anni, e lì ha iniziato il terrore. Dov'è il babbo, come sta il babbo, eccetera. A quel punto, quando io sono andata all'ospedale, io non gli ho chiesto per favore che non glielo dicessero. Lui voleva sempre fare le videochiamate con me, e se l'avessi videochiamato dalla stanza dell'ospedale avrebbe capito tutto. Quindi ho detto a mia sorella di dirgli che ero a casa, che non potevo uscire perché ero stata a contatto con il babbo, ma che stavo a casa. Ho continuato a chiamarlo solo a voce per i primi 2 giorni di ricovero, ma dopo 2 giorni hanno messo l'ossigeno anche a me e non potevo più chiamarlo. Anche volendo, non avevo più né voce né fiato per parlargli. Per una settimana mia sorella è riuscita a sviare l'argomento. Lui, poi, Giovanni, per il suo carattere è uno che non parla, parla poco, mio figlio. Si tiene molto dentro le cose, è molto difficile che tiri fuori quello che pensa e le sue paure soprattutto. Però, conoscendolo, sapevo che era molto in ansia. E quindi l'ho dovuto chiamare, gli ho dovuto dire che anch'io ero all'ospedale. Che all'inizio ho provato a dirgli che era per il bambino, per fare dei controlli, perché ormai era tutto chiuso, quindi mi dovevano ricoverare per farmi dei controlli al bambino. Ma tanto sai che hanno le antenne lunghissime, e immediatamente mi ha detto, quando ha abbassato, ha cominciato a urlare, a piangere, ha detto anche la mamma è malata, e lì è stato un momento un po' difficile. Lui sentiva parlare di morti alla TV, e chiaramente un bambino di 8 anni non ha gli strumenti per capire la complessità di quello che sta accadendo. Per fortuna c'era mia sorella, mia nipote e i nonni. Anche se loro sono in isolamento perché anziani e con problemi al cuore, a distanza gli hanno parlato, gli hanno spiegato tutta la situazione, che si può anche guarire. Lui è riuscito a tirare fuori le sue paure e ad accettare di più il mio ricovero. Da quando ho avuto l'ossigeno anche io, comunicavamo solo via WhatsApp. Oltre a non avere fiato ed energie, non sapevamo nemmeno bene che cosa dire. Fuori erano tutti molto preoccupati. Per fortuna ci è venuto in mente di un amico medico che ogni tanto poteva chiamare i suoi colleghi nel nostro reparto e chiedere com'era la situazione. Questo serviva soprattutto per spiegare ai nostri familiari come stavamo, anche perché io, da dentro, non avevo la situazione così chiara. Io non ce l'avevo neanche tanto chiara, perché a noi... io gli potevo dire come mi sentivo io quel giorno, insomma, potevo dire una sensazione. Come tutte le storie seriali, vi raccontiamo un episodio alla volta, che se volete potete riascoltare il sabato alle 21.30, raggruppato in 5 blocchetti unici in uno speciale di Linee d'Ombra che va in onda appunto alle 9.30 di sera sabato durante il weekend, oppure potete recuperarvelo sul nostro sito in podcast. I 5 blocchi dei diari della quarantena li trovate tutti insieme, potete farvi binge listening e ascoltarvi, saranno di fatto 3 settimane. Alla fine di questo racconto sono quindi 15 puntate, 15 mini episodi, quelli di Irene e della sua famiglia, che nuovamente ringraziamo per aver raccontato tutto a Mauro Pescio. Oltre a Mauro ringrazio Paolo Corleoni, Anita Panizza e Luca Micheli, con cui componiamo quotidianamente questo piccolo angolo di storie che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 qui su Radio 24, che insieme all'informazione vi fornisce un pochettino di intrattenimento attraverso le vostre storie. Continuate a mandarcele, storie di confine, storie che raccontano di un passaggio da una parte all'altra, dalla luce all'ombra, o dal grigio al bianco, o dal nero all'azzurro, insomma avete capito, da un colore a un altro, da un pezzo di vita a un altro, una storia che abbia a che fare con il passaggio di una linea. Ora la linea al GR, a proposito di linee, noi torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!